Ciao Matteo, buongiorno. Ciao, buongiorno anche a te. Tu che cosa hai comprato? Ma guarda, io 20 anni fa ho comprato un oggetto che hanno avuto il coraggio di rimettere in commercio non più di 6-7 mesi fa, rivedendo una televendita proprio nel cuore della notte. È praticamente quella specie di pettine che taglia i capelli. Non so se te lo ricordi. Sì, certo. Lo vende un televenditore molto noto, che fra l'altro ha una faccia simpatica, si chiama Roberto Artigiani. Questo personaggio è praticamente un pettine che tecnicamente regolandolo ti dovrebbe tagliare i capelli in modo regolare, evitando di così di andare dal barbiere. Scusami Giuseppe, una sorta di regola barba per i capelli o sbaglio? È una specie di regola barba, ma più che un regola barba è proprio un pettine vero e proprio completamente manuale, non è elettrico. Ah, ho capito, quanto l'hai pagato? Te lo ricordi? 50.000 lire in più. Ti dico, mi hanno regalato un bellissimo regola calli, che poi a 15 anni penso che non te ne fai nulla. Soprattutto era più simile ad un oggetto per levigare il legno di quelli che trovi praticamente nei centri commerciali. Era assolutamente inutile. Senti, il risultato? Il risultato è che praticamente mi sono tagliato i capelli e mi sono trovato dopo circa 15 minuti ad avere metà testa con una misura e metà testa dall'altra. Sono corso dal barbiere praticamente a farmi regolare tutto. Ah, senti, guarda Giuseppe, mi dicono che se stai un secondo in onda noi abbiamo addirittura una documentazione di tutto questo. Si chiama Magic Harry. Pensate, di questo oggetto ne sono stati venduti così tanti pezzi da battere ogni record, forse insuperabile anche nel futuro. Forse insuperabile anche nel futuro, Giuseppe, era lui. Guarda, ne sono convinto, infatti penso che una schifezza del genere difficilmente si potrà replicare. Giuseppe, guarda. Grazie mille, buona giornata.